Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, leggo con stupore l'apertura de Il Giornale che ogni venerdì si concentra sulla puntata di Anno Zero della sera precedente. Lo stupore nasce dal fatto che Santoro non ha fatto gli auguri alla mafia. Santoro ha fatto gli auguri ad alcune persone, dal presidente Berlusconi all'onorevole Cicchitto. Ha fatto gli auguri anche a Spatuzza, è vero, ma è cosa ben diversa che fare gli auguri alla mafia. E mi dispiace constatare ancora una volta come l'informazione sia sleale, distorta, di parte. Quella stessa informazione sulla quale, volenti o nolenti, si costruisce il giudizio della gente e la formazione di un proprio libero pensiero. Ma liberi così non siamo, perché se non c'è verità incondizionata, non può esserci libertà. E senza verità e libertà, non è possibile concepire l'impegno politico come ricerca del bene comune, libero da ogni pregiudizio e con autonomia di valutazione. Ho sempre pensato alla politica come una concezione del mondo alta, rivolta all'uomo. La politica è come gli uomini governano se stessi, vedono la propria vita individuale, organizzano la propria vita sociale. Dovrebbe essere il modo supremo di esercitare questa funzione. Troppi politici o politicanti, invece, la intendono come pura amministrazione dell'esistente, subordinata ad altri poteri, o esercizio di un piccolo potere che non determina quasi niente, è parassitaria, insegue il consenso. Il pericolo più grande allora sta proprio qui, non nell'ombra della paura di un possibile ritorno agli anni di piombo. Verità e libertà. Di questo abbiamo bisogno, perché sono i veri valori che stanno alla base del vivere democratico, in una sana tensione dialettica che esclude l'odio. Ma se questo mio pensiero è utopia, allora non mi resta che augurare a tutti buon Natale, quello vero. Non portateci via almeno questa verità. Marcello, Bergamo. Nei giorni immediatamente successivi alla vile aggressione di cui è stato vittima il Presidente del Consiglio, Marco Travaglio ha candidamente affermato che è assolutamente lecito odiare il proprio avversario politico e sperare che il creatore se lo porti via. Così, autorivelandosi, Travaglio ha sgombrato il campo da qualsiasi dubbio, gettato la maschera e mostrato il suo vero volto. Queste ripugnanti parole pesano come un macigno e sono destinati inevitabilmente a trascinare nel profondo abisso, per il loro insostenibile peso, anche colui che con aberrante convinzione le ha pronunciate. Questo inno all'odio e alla morte, ignobilmente cantato proprio nell'imminenza del giorno dell'Avvento, e quindi mentre in gran parte del mondo si celebra la sacralità della vita, cozza fragorosamente contro i principi cardine della cristianità, contro la pietà umana, ma anche contro i più elementari principi della convivenza civile che, nel reciproco rispetto e nella solidarietà tra gli uomini, dovrebbe trovare le proprie irrinunciabili fondamenta. L'ineffabile giornalista, esprimendo questo ignobile pensiero, ha dimostrato di condividere i principi ispiratori delle azioni dei terroristi, i quali, in nome della loro verità, non si limitano a contestare, ma arrivano a odiare colui che individuano come loro nemico, fino al punto non solo di augurarsene la morte, ma addirittura di sacrificare la loro stessa vita e quella di altri innocenti pur di cagionarne la morte. Naturalmente l'eroico cronista non si spinge a tanto, trovando molto più comodo lanciare i suoi velenosi strali, fomentare la spirale della violenza e seminare odio al riparo degli schermi televisivi sotto la rassicurante ala protettrice dei suoi inseparabili mentori. In un paese normale, un uomo di siffatta pasta non solo non dovrebbe comparire nella televisione pubblica, rappresentando un pessimo esempio per tutti, ma dovrebbe essere bandito dalla società civile per evitare che possa continuare a diffondere il germe letale dell'odio e contaminare milioni di bambini, ai quali, sostanzialmente, ha detto che odiare il prossimo e desiderarne la morte sono dei nobili sentimenti che lecitamente possono albergare in ciascuno di noi. Tuttavia, noi non proviamo odio nei confronti di Travaglio, perché questo sentimento, dallo stesso orgogliosamente sbandierato, ci ripugna e non ci appartiene. Invece lo commiseriamo e preghiamo che qualcuno più in alto di noi abbia pietà di lui. Giuseppe. L'emissione di un parere sintetico di valutazione è una continua attività della mente umana. da quella più alta e intellettuale a quella più ignorante. Sarebbe l'esercitazione di un diritto come andare al bar e parlare con gli amici di sport. Ciò a dire che il giudizio non è di utilizzo esclusivo di persone che operano nel campo del giornalismo, della magistratura, della politica o dell'informazione. Tuttavia, oggi più di ieri e per questioni puramente economiche, tali figure vanno in avanscoperta alla ricerca di tendenze globali, dando la possibilità a chiunque di emettere un parere sintetico di valutazione, ristretto al singolo fenomeno che di fatto viene dimenticato il prima possibile. Il ricevente viene posto in un sistema che non coglie le cause e non vede gli effetti, uno stesso sistema che controlla subdolamente chi esercita il sacrosanto diritto di dire che Berlusconi se l'è cercata. Tale affermazione, mi sia consentito dirlo, non è un inneggio alla violenza. Giovanni. Gentile direttore, premetto che sono abbastanza nauseato dalla politica attuale e da tutto quello che ci gira attorno. E per me, che da giovane l'attività politica l'ho fatta davvero, è una vera, grande delusione. Non riesco nemmeno più a raccapezzarmi tra le incredibili sciocchezze che si sentono in giro e che i media, purtroppo anche loro, molto diversi da quelli di quando ero giovane io, non esitano ad amplificare senza un minimo di critica o di riflessione. Non mi fraintenda, non sono uno di quelli del «si stava meglio quando si stava peggio». Adesso si sta infinitamente meglio di 30 anni fa. Internet è una conquista che ha realmente cambiato il mondo, assieme a tante altre cose che ci fanno stare meglio e vivere più a lungo. Ma è incredibile come questo paese senta una voglia irrefrenabile di gettare tutto al vento. E onestamente non riesco nemmeno a capirne il perché. Leggo che Schifani vorrebbe regolamentare Internet e credo di aver capito che vorrebbe solo che si evitassero messaggi deliranti o gruppi incitanti alla violenza, e subito Di Pietro lo addita come dittatore o presunto tale. Ma Di Pietro non è quello delle manette facili, del rispetto estremo della legalità anche a scapito della libertà personale e dei valori? E quindi non dovrebbe dire «Ok, il problema esiste, parliamone e vediamo di mettere dei paletti pur garantendo la libertà del mezzo?» Come lo chiama lei il reato di istigazione alla delinquenza o alla violenza? Reato o libertà di dire e fare quello che si vuole, naturalmente in modo rigorosamente anonimo? Perché, secondo lei, si è persa del tutto la cosiddetta ragionevolezza? Perché, quando si amministra un comune o una regione, si pensa alle case, alle scuole, alle strade, ai ponti, agli ospedali? E quando si amministra la cosa pubblica, si pensa alle scemenze e a negare tutto, anche l'evidenza? Sono stato un pioniere di Internet e credo che ormai sia un elemento indispensabile alla realtà quotidiana. Ma una piccola serie di regole dovrebbero essere scritte. Perché chi imbratta i muri deve essere punito e chi imbratta un sito no? Mario, provincia di Vicenza. Ma cosa ne sanno di informatica questi signori politici? La pubblica amministrazione funziona ancora in buona parte con carte umidicce e ingiallite. Gli enti locali hanno personale che lavora sulla tastiera, quando ce l'ha, con il solo dito indice della mano destra. La settimana scorsa, in una ASL della Sicilia, alla mia richiesta di informazioni mi hanno risposto «Vada nella terza stanza a destra dove ci sono i computer», come a dire che nelle altre stanze non ce n'erano. I nostri politici non sanno niente di PC e alcuni se ne vantano. Vedi le dichiarazioni di D'Alema in un'intervista di qualche anno fa. In compenso si preoccupano che, con gli strumenti a disposizione di tutti, chiunque possa mettere su una manifestazione come il Nobby Day o come il V-Day che organizzò Beppe Grillo qualche anno fa sulla rete. Possono toglierci Facebook, Radio 24, le dirette internet, ma non potranno toglierci la capacità di pensare autonomamente. Filippo. Non si tratta di fare un passo indietro, bisogna farne almeno 10. Di fronte a tanta acredine, a tanto livore, a tanta animosità, rancore, velenosità, cattiveria e a tutti gli altri sinonimi che possono venirci in mente per indicare lo stato di fatto attuale, occorre fermarsi, riflettere e poi ancora pensare e ripensare, poi magari riascoltarsi per sentire cosa è potuto uscire dalle nostre bocche. Sinistra, destra, centro, non importa, non c'è differenza. Il livellamento verso il basso è omogeneo. Come cittadina, come italiana, come elettrice, come persona, Mi sento offesa e ripudio questa politica che non sa più occuparsi della gente e non sa più o non l'ha mai saputo fare il mestiere della politica. Cioè, come recita il dizionario, la teoria e pratica che ha come oggetto l'organizzazione e il governo dello Stato, magari anche il suo bene, non lo sfascio totale. Daniela, Torino. Gentile Daniela, in politica purtroppo negli ultimi tempi è stata applicata quella legge che in economia dice che la moneta cattiva scaccia quella buona. C'è stato un crescendo di attacchi personali e di polemiche strumentali che hanno, come lei afferma, lasciato in secondo piano i veri problemi dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori. E tutto questo in una situazione economica sempre più difficile e complessa. Si va avanti con provvedimenti una tantum, come lo scudo fiscale, mentre sarebbe urgente un aiuto strutturale dal fisco sia per le imprese sia per i dipendenti. Altrettanto urgenti sarebbero una riforma dei contratti di lavoro e un più rapido riassetto della previdenza. Ma in questo una responsabilità nel frenare i cambiamenti viene anche dai sindacati, che restano divisi sulle strategie da adottare. Ne risulta un paese sostanzialmente fermo, mentre il mondo cambia in maniera rapida e non pone solo nuovi problemi, ma anche grandi opportunità. Ma lo sappiamo, il dibattito nei prossimi mesi sarà concentrato sulla riforma della giustizia con nuovi scontri e divisioni e sulle elezioni regionali e anche per queste ultime con una spartizione a tavolino dei posti, come se il voto popolare non contasse nulla. In questa fase essere ottimisti è certamente difficile, ma paradossalmente ancora più necessario. E allora ognuno al suo posto e cerchiamo di fare ognuno il proprio dovere, certo non rinunciando alla nostra libertà di lamentarci. Gentile direttore, sono sinceramente stupefatto, in seguito all'aggressione che ha subito il presidente Silvio Berlusconi, di non aver mai sentito ricordare l'episodio che occorse qualche anno fa al primo ministro svedese, già presidente del Consiglio d'Europa, la signora Anna Lindh, che fu uccisa a coltellate in un supermercato da un balordo il 10 settembre del 2003. In quell'occasione io mi trovavo in Scandinavia, oggi lavoro in Svizzera. Quel fatto terribile ebbe per conseguenza il sentimento composto di solidarietà e di affetto di una nazione colpita nel suo più alto rappresentante. L'episodio ha avuto naturalmente risonanza, ma non è stato, a mio avviso, né strumentalizzato né tantomeno riportato come qualcosa di diverso da quello che è stato. L'aggressione di una persona in vista da parte di uno squilibrato. A mio modo di vedere, una distanza siderale divide il comportamento composto e civile tenuto dalla cittadinanza svedese in quell'occasione dal frastuono osceno di chiacchiere e grida dei politici e dei media italiani che rappresentano e amplificano le viscere, le pulsioni più basse del corpo sociale, senza minimamente gestire, dirigere, condurre, guidare il popolo. Il fragore di parole strillate porta alla suefazione, all'assurdità, all'innalzarsi dei toni e all'inflazione dei contenuti. Nella sovrabbondanza di commentari si perde di vista la realtà dei fatti. Il paese, almeno quello che si trova nei media, ricorda un'esasperata riunione di condominio. La posizione di cittadino residente all'estero mi fa guardare con un certo distacco alle vicende di casa nostra. Di questo distacco, con questi chiari di luna, non posso altro che rallegrarmi. In ogni modo, se chi vive la realtà italiana dal di dentro è portato a farsi prendere dall'esaltazione spostata della dialettica politica, a me che guardo dall'esterno questo spettacolo provoca soltanto una gran tristezza. Spero che in futuro si impari a fare un passo indietro. Davide. Gentile direttore di Radio 24, 5 anni fa, mentre mi trovavo a Pisa per effettuare una visita medica, camminando piacevolmente per le strade della città che presentava palazzi dai muri puliti, senza graffiti e scritte, in una stradina adiacente alla scuola normale, rimanevo colpita, ad un tratto, da una frase inquietante scritta a grandi lettere su un muro bianco. «Non vogliamo le vostre macchine, non vogliamo il vostro lavoro, non vogliamo le vostre case, vogliamo voi». Come poteva un pensiero così aggressivo rimanere nascosto sul muro di una prestigiosa università nell'indifferenza degli uomini di governo e del mondo universitario? Che abbia ragione l'anonimo che ha scritto sul muricciolo del piccolo parco di Via Gallonio a Roma che gli italiani hanno la testa piena di grasso? Che senso ha a questo punto insegnare la storia nelle nostre scuole e nei nostri atenei? La battaglia di Lepanto è solo un evento trascorso? Io, da persona della strada, suppongo che quanto stia accadendo in Europa, in particolare in Italia, non sia accoglienza o immigrazione, che qualcuno benevolmente chiama migrazione, dimenticando che la migrazione comprende il passaggio inverso, cioè il ritorno al luogo dal quale si arriva, bensì invasione, silente invasione verso paesi socialmente avanzati ma in crisi involutiva per l'improvviso benessere che li ha pervasi negli ultimi 50 anni. Questa immigrazione è davvero pacifica e senza pericoli? Ida Magli, nel suo libro Contro l'Europa, ha ragione o torto? Piera, Roma. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.